Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Sono qui in collegamento con Cleo, che nella sua pagina Instagram ironicamente ha messo in modo un po' più scurrile la sua presenza nelle bambole di Pezza. Io vado a dire semplicemente la signorina frontale delle bambole di Pezza per essere politically correct. Ciao Cleo, tutto bene? Ma si può dire, lo decido io, figa frontale mi chiamo. Okay, allora figa frontale delle bambole di Pezza, si può dire. Va bene. Hai il permesso. Se me lo dici tu, diciamo che, sai che, detto sì, da... Sì, vai tra. Allora, per i tempi che corrono, meglio da parte mia, meglio politicare correct. Comunque, dicevo, innanzitutto grazie alla disponibilità, perché sicuramente sarete murate di lavoro tra prove e quant'altro per queste 5 date che dovrete partiranno tra una settimana praticamente, e con l'uscita appunto del nuovo disco. Quindi davvero grazie per aver trovato questa oretta da passare qui in compagnia con me a parlare appunto di queste date del nuovo disco. Quindi grazie Cleo. Come dicevo, appunto... Quarto album per le bambole di Pezza dopo sostanzialmente un anno e mezzo uscite con Dirty, l'album del ritorno delle bambole di Pezza con una nuova formazione, e questa formazione continua fortunatamente ad esserci e a tirare fuori ancora nuova musica. Quindi inizialmente ti vado a chiedere, dato che siete riusciti a tirare fuori un disco sostanzialmente nuovo in pochissimo tempo, perché sono un'altra dozzina di canzoni rispetto a quelle 14 canzoni, giusto? E piuttosto che quello che avevate fatto con Dirty, era già un lavoro, diciamo, che c'era già in Dirty, che sono cose rimaste un attimo in cantiere, oppure sono proprio robe nuove che avete detto ok, finiamo Dirty? Ma in realtà in cantiere c'era solo una canzone che ai tempi non mi piaceva tanto e poi l'ho rifatta, semplicemente, ma per il resto sono tutte cose nuove. Ok, e di queste l'altro motivo, come dicevo, che ovviamente Cleo qui con me per il nuovo album delle Bambole di Pezza, è di queste 5 date, che tra cui partirete il 7 di marzo con Torino, che dalle vostre pagine che ho letto è sold out, quindi... Sì. Per la data di Bologna è quella del 13 di marzo qui a Locomotive, e dopo via discorrendo il 14 saranno a Treviso New Age, il 27 sempre di marzo a Roma a Largo Venue e il 3 di aprile a casa vostra sostanzialmente ai Magazzini Generali di Milano. Quindi affrettatevi, perché i biglietti a quanto pare stanno andando velocissimi verso l'esaurimento, quindi dato appunto dalla data di Torino che è già sold out. Sì, poi noi comunichiamo tutto quanto sui social, quando c'è una data che è agli sgoccioli lo diciamo sempre, quindi basta seguirci e poi vabbè, noi pubblichiamo sempre i biglietti, le cose, quindi trovate sul nostro profilo Instagram, trovate veramente tutto, vi facilitiamo la vita in ogni modo. Quindi più facile di così, io poi dopo se tu più non facile ci vuoi, di così esatto, se tu non ci vuoi venire poi non è colpa mia, però non ti lamentare se rimani fuori dal concerto. Esatto. No, va bene, mi fa un sacco piacere. E questo è un piccolo inizio, diciamo, poi per quello che sarà anche di altre date, se puoi dirmi qualcosa. Beh, in realtà non è per niente piccolo, nel senso che fare date di questo tipo, di questa portata, in determinati palchi, con una produzione del genere, in realtà non è per niente un piccolo inizio, cioè per noi è una cosa grossa, perché riuscire a fare sold out nei locali, non essere in apertura nessuno, non avere nessuno in apertura, una roba tutta tua, uno show tutto tuo, poi i magazzini non sono proprio, ma in generale i nomi dei locali che ci sono nomi di locali importanti, quindi non è un piccolo inizio, in realtà è molto più importante questo tour di tante altre cose che magari faremo quest'estate. Sì, adesso magari mi sono espresso male, un piccolo inizio nel senso a livello di date, proprio 5 piuttosto che una decina o 15, non a livello appunto di locali. Ma perché locali. Non avrebbe avuto, nel senso nel senso che quando vai a fare i club ovviamente cerchi di rendere insomma cerchi di rendere l'esperienza il più bella possibile alle persone che vengono a vederti. Quindi giustamente cerchi, a parte i locali giusti, con la situazione giusta, cerchi anche di fare in modo che ci sia un bel bordello quando vai a fare i concerti. Quindi giustamente abbiamo cercato le location giuste, le situazioni giuste, abbiamo optato per 5 date perché ci sembrava giusto così, come inizio di promozione. E poi d'estate ovviamente la situazione è diversa, d'estate i posti sono molto più grandi, ci sono un sacco di feste, ci sono un sacco di festival, un sacco di situazioni dove magari sono anche più di una band, ovviamente la situazione è diversa, mentre questo è proprio mirato per i fan delle bambole che vogliono venire a vedere il nostro show. Ok, perfetto, più chiari di così non si poteva, non potevi essere. Detto questo, andiamo a rompere il ghiaccio anche per quanto riguarda appunto il nuovo album delle Bambole di Pezzo con Wanted, con un primo brano di cui appunto ti ho chiesto di dirmi quali preferivi mandarmi, e mai detto senza permesso, che dà anche il titolo a questo tour. Sì, esatto. E quindi che è stato il primo singolo dell'album, il primo singolo dell'album con cui abbiamo annunciato l'uscita dell'album. Quindi sì. Quindi ha tutto un senso, quindi tutto torna, non è lasciato al caso. E riprendiamo la diretta sempre qui con Cleo delle Bambole di Pezzi, che stavamo parlando appunto di questo tour e di questo nuovo album che sono uscite. E mantenete sempre la linea, che bene o male avevate già un po' iniziato con dirti, questo suono un po' più rock, meno grezzo appunto rispetto a un tempo, e con un po' come anche testi più curati, come un po' anche il suono, se non sbaglio, giusto? Beh, ma io non, ovviamente il cambiamento più importante è stato proprio il cambiamento della cantante. Esatto. Io ovviamente non sono più cioè non sono la cantante delle prime formazioni, quindi è logico che cambia completamente tutto. Se cambi la cantante, cambia completamente la band sotto ogni punto di vista, e quindi ci siamo ovviamente aggiornate, non solo a me, che comunque sono una persona diversa e anche di un'altra generazione rispetto alle vecchie cantanti, ma anche ai giorni d'oggi, perché io sono abbastanza convinta che ogni musicista debba rendersi conto di vivere comunque nel 2025, e bisogna riuscire a prendere il buono, tutto ciò che può esserci di buono che ci può dare questo periodo musicale, dovremmo prenderlo, considerando che non sono troppe cose, almeno riuscire a prenderne un po'. Ok, giusto, infatti effettivamente il discorso di questo tre quinti di cambio effettivamente si può sicuramente dare sfogo a quello che c'è stato appunto nel cambio anche un po' musicale, ed essere un po' più, come dicevi tu appunto, aggiornati su quello che possa essere la nuova formazione, la nuova rinascita delle Bambole di Pezza, perché sono stati praticamente 10 anni, se non sbaglio, più o meno, in cui sì, ma non parliamo non del c'era, passato non c'era ce ne frega non c'era niente di a noi di quello che è successo. Ce ne frega niente di quello che è successo fino a prima di 3 anni fa, parliamo degli ultimi 3 anni. E quindi fa niente. Ti avevo un attimo spoilerato prima, durante qualche chiacchiera prima, per vedere se funzionava tutto bene o male, e per parlare un attimo appunto, dato che c'è un discorso di modernità, a parte J-Ax, dei vari featuring che avete nelle varie canzoni, con Wanted con Jack Out, Pagine con Divi, Atlantide con Mille e Fuori di Testa con Georgines. Io personalmente, tolto J-Ax, non, ignoranza mia, non neanche li conosco. Divi? C'è neanche anche, Divi? Sì, Pagine con Divi, io ho letto nella pagina e di... non conosci Divi? No, sinceramente no. Il cantante dei Ministri? Ah, ok, è perché è un discorso che io non seguo il Ministri, di conseguenza non mi sono mai informato effettivamente. Ah, ok. Cioè, è solo semplicemente per quello. Quindi ok, quindi anche qui c'è un discorso. Sì, sì, sì. Discorso, quindi come sono nati un po' questi featuring? Ma in realtà per amicizia, tutti, anche quello con J-Ax, sono nati per amicizia e stima personale. cioè non c'è un discorso, chissà quale discorso discografico, manageriale dietro, semplicemente sono persone con cui avevamo piacere a fare musica insieme e avevamo piacere anche a passare del tempo insieme, perché per costruire una canzone devi passare del tempo insieme. Quindi sono semplicemente amici e rispettiamo e sosteniamo il percorso l'uno dell'altro. Ok, quindi una piccola curiosità mia, ma vi hanno ovviamente anche un attimo aiutato durante la scrittura del brano in cui effettivamente... In che senso? Cioè, nel senso, dici, ok, io faccio Wanted con Jack Out, e quando avete contattato Jack Out per dire... ci piacerebbe fare un featuring con te, quando gli avete un po' spiegato cosa, com'era la direzione del brano e vi ha dato un attimo, dici, secondo me io in questo passaggio farei questo così, oppure dici, guarda, la sua ovviamente le loro parti se le scrivono da soli, okay. Nel senso che ogni artista la propria parte se la scrive per sé. Se chiedi un featuring a un artista, logicamente vuoi il suo stile, vuoi il suo metodo, vuoi le sue parole, vuoi i suoi testi, perché proprio nel featuring la cosa importante è proprio l'essenza di quell'artista che tu stai chiamando nella canzone. E tendenzialmente quello con cui c'è stato un pochino più lavoro è stato appunto Jack Out, perché abbiamo lavorato col suo produttore che è Mocha. E il pezzo è nato in casa con un tagliere di salumi e formaggi mentre scrivevamo il pezzo, insieme anche a Klaus Noir, e abbiamo scritto il pezzo insieme, Mocha come produttore, e ovviamente lì c'è stato un po' più di scambio perché eravamo proprio insieme fisicamente. In altre situazioni non c'era l'occasione di stare sempre insieme in studio, tranne con Divi, che invece c'è stata occasione di stare in studio un pochino di più, però sì, tendenzialmente la loro parte l'hanno scritta loro. Quello con cui appunto c'è stato più lavoro proprio insieme, le due persone sono state Jack Out e Divi, c'è stata un pochino più occasione di collaborare a tu per tu. Ok, no, va bene, fa piacere. È carino anche questi retroscena, appunto, come hai detto, del discorso di Jack Out a tavola con Salumi e quant'altro, per dare un attimo libertà a quello che si poteva appunto passare con il brano e quant'altro. Spoiler, magari se me lo puoi dire, magari in qualche data ci sarà qualche comparsa da parte loro che tu sappia? Sì, sicuramente ci sarà Mille a Milano, Jack Out dovrebbe venire sia a Milano che a Torino, quindi Divi dovrebbe esserci a Milano, quindi sì. Ah, vabbè, anche perché da parte mia è effettivamente figo vedere da live l'effettivo featuring, se proprio vedere la parte cantata da chi l'ha scritta effettivamente, piuttosto che magari semplicemente o una base, oppure che una di voi si fa vece di punto di quello che è stato la parte chiesta da qualcun altro, provo a dire. Quindi figo, speriamo che ci sia anche qualcosa anche a Bologna, nel caso che così magari si riesca a vedere questo featuring. Sì, vediamo, adesso stiamo proprio organizzando questa cosa qua, quindi vediamo. Ah, vabbè, figo, dai, è carina anche sta roba, che se riuscite a portare qualcuno in giro per l'Italia con voi. Comunque, seconda parte di Lestormon Rock, sono sempre qui collegato con Cleo, la frontman delle Bambole di Pezza, la signorina principale delle Bambole di Pezza. 333-180-94-94 se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp, che così poi lo leggo, lo riferisco qui a Cleo per un saluto o anche una domanda appunto qui a Cleo. Comunque diciamolo. Dimmi. Bene, perché è front woman, comunque si può dire front woman, esiste frontman, diciamo front woman. Signorina cantante è un po', cioè nel senso signorina, tu a un uomo gli dici signorino, no? Lo chiami frontman, quindi io sono front woman. Giusta osservazione, e sai cosa? È l'abitudine di dire frontman, no? Col fatto che... Lo so, perché hai ragione. Questo è uno dei problemi della nostra società, è il motivo per cui io sono super pro, per esempio, a mettere avvocata, tutte queste cose qua. Io sono super iper pro a mettere i femminili di tutte le di indistintamente tutte le professioni. Tra l'altro, se tu usi per esempio avvocatessa, in realtà in italiano significa la moglie dell'avvocato, non significa persona che fa avvocatura. Quindi bisognerebbe dire proprio avvocata, e tutte queste cose qua. Adesso architetta. Bisognerebbe, io sono super pro a cambiare, a mettere il femminile, perché appunto, come vedi, anche per quanto possa esistere frontwoman, in realtà siamo troppo abituati a volgere sempre al maschile. È una roba proprio che fa parte, che atavica, fa proprio parte della nostra società. No, no, giustissimo. Guarda, sono d'accordo con te. E come ti dicevo, appunto dall'abitudine di dire frontman Sì, piuttosto che esatto. frontwoman, appunto in questa occasione. E erroneamente mi sono messo con frontman, No, però. ma uso questi piccoli spot per fare un po' di femminismo, visto che siamo qua con una front girl, front woman Stavi un attimo per delle cadere anche te bambole di pezza. nel No, tranello, no, hai già. no, no, no, non so se preferire front girl o front woman, in realtà anche front girl va bene. Sì, Però. esatto. Diciamo che front girl magari è un po' più giovanile rispetto a che front woman, è un po' più. Ah, che front woman mi ricorda un po' Wonder Woman, non lo so, quindi Sì, è vero. front girl magari un po' più carino, non lo so, devo Potrebbe. decidere ancora qual è il mio preferito. Vabbè, dai, quando poi ce l'hai, magari se in questi 20 minuti in cui abbiamo più o meno di intervista, sei delucidato anche questo bivio, diciamo, dimmelo pure. Va Quindi bene. hai toccato appunto un argomento di cui nell'album parlate tantissimo. Esatto. Ci sono tantissime Sì, sì, sì. canzoni che a fronte appunto di questo femminismo e potere alle donne, per modo di Ma dire, giusto? diciamo, potere alle donne, vogliamo il potere. Più che altro è una. Cioè, diciamo che cerchiamo nei nostri testi di affermarci in un modo che se sei. In realtà io ho notato che. Se hai un po' il dente avvelenato, lo chiami, ti rendi subito, fai subito caso al fatto che ah, una donna vuole fare la femminista, bla bla bla, di qua, di là, di su e di giù, sai, quelli che si lamentano quando sentono certi testi. Ma in realtà, se li vai ad ascoltare bene, sono proprio testi di autoaffermazione. Infatti, la maggior parte dei nostri fan, anche uomini, si ritrovano nei testi perché dicono: anche io mi sono sentito così, anche io mi sono sentito una volta nella vita. Almeno una volta nella vita, impotente di poter fare determinate cose, di poter prendere determinate scelte, mi sono sentito anche io psicologicamente o anche fisicamente manipolato da una persona. E quindi è poi l'autoaffermazione dei nostri testi che porta a essere femminismo, perché vedere una donna che si autoafferma così, che parla di se stessa in questo modo e che cerca di trasmettere dei propri valori e il proprio pensiero, a prescindere da quello che gli altri possono pensare di lei, allora diciamo che prende tutto quanto un significato diverso. Non è un testo politico, non sono testi politici che parlano di femminismo come se fosse un partito. È più una questione di io sono questo, io mi voglio affermare, io sono donna, io lo posso fare. E diciamo che vederci proprio, sai quanti ci capita di gente che magari ci critica per quello che facciamo, per quello che diciamo, per come lo diciamo, ah, nazifemministe, ah, sinistroidi, ma in realtà è gente che parte già con il dente avvelenato. Per onesto, non è che perché lo dice una donna. Non è perché una donna si autoafferma, allora sta facendo un testo politico. Cioè, è ovvio che c'è anche della politica dietro, perché comunque fa ancora un po' strano e ce n'è ancora bisogno di una donna che si affermi. Però partire così, non so, col pregiudizio di dire se lo dice una donna allora è perché sta prendendo posizione, ma vuol dire che già noi, an che ancora noi vediamo una donna che si autoafferma e deve smettere di essere così. E con i nostri testi noi vogliamo proprio fare questo. Ok, giustissimo, giustissimo. Non ho, diciamo, nulla da non dico da controbattere, perché è un discorso più che giusto quello che hai fatto tu, quindi io lascio semplicemente quello che hai detto tu e va benissimo così. E continuiamo con la diretta, l'ultimo quarto d'ora più o meno, sempre in collegamento con Cleo, che così dopo la lascio libera alle sue faccende di questa domenica, domenica sera. Magari banale, te l'hanno chiesto in tantissimi, però te lo vado un attimo a richiedere magari. Tutti i vari testi, bene o male, li hai scritti di tuo o è stata una cosa di gruppo, diciamo, da tutte le ragazze? Allora, diciamo che inizialmente arrivo io con un testo, poi ovviamente un testo deve rispecchiare l'intera band, quindi giustamente è vero che lo canto io, ma io parlo per tutte quando sto cantando una canzone, e quindi giustamente poi il testo viene rivisto, ognuna dice la sua, si fanno delle modifiche, si danno delle idee. Però sì, tendenzialmente scrivo io i testi, ma è anche normale che sia così, perché alla fine se decidi nella vita di fare la chitarrista è più probabile che tu ovviamente passi il tempo a dedicarti a quello strumento. Io ovviamente ho passato la vita a cantare e giustamente nel canto la cosa tra le cose più importanti sono le cose che dici, quindi sono sempre stata più portata, anche solo per abitudine, a pensare alle parole molto più delle altre, quindi è normale. Di solito funziona, di solito, la maggior parte delle volte funziona che il cantante scrive, quindi sì, insomma, è così. Bene o male, ok, c'è un po' tutto in mezzo, ok. Fa piacere che sia una cosa appunto di gruppo, piuttosto che dice in posizione, dice questo lo facciamo così perché l'ho deciso io e basta, giustissimo. Intanto è arrivato un messaggio da Andrea, che è uno, spoilerino per modo di dire, è uno dei boss qua di Radio Città Fujiko, che ti saluta e dice che è diventato un vostro fan dopo aver ascoltato la cover di Rumore. Quindi anche quella, che bello. Quindi anche quella effettivamente cover azzeccatissima, e l'avete fatta effettivamente in ottimo modo, senza stravolgerla troppo. Ma lo sai che è diventata la sigla del documentario? No, è diventata? È la sigla, è diventata la nostra versione di Rumore, è la sigla del documentario della Carrà. Ma dai! Su Disney Plus c'è il documentario che si chiama Raffa. Ok. E la sigla è la nostra versione di Rumore. Figo. Sì. Quindi, piccolo retroscena, qualcuno vi ha chiesto, ragazzi, vi prendo la canzone e se... Sì, sì, sì. Ah, ok, c'è stato qualcuno. Sì, sì, sì. Ah. Cioè, quelli che hanno fatto il documentario, che l'hanno distribuito in Italia su Disney Plus, in realtà... non so in quante lingue è stato tradotto il documentario, però insomma chi ha fatto il documentario ha voluto la nostra canzone. Ok, dici, tagliando corto il discorso è questo. In questo album nessuna cover, a parte no. White Christmas, che era un singolo che avevate fatto. No, non era la White Christmas, era All I Want for Christmas is You, esatto, singolo dell'anno scorso, quindi diciamo... Vabbè, ma era così, per fare un po' il Natale punk, volevamo provare, vedere com'era, è stato più un gioco, però è iniziata e finita lì come cosa, era un giochino così... tra l'altro non siamo mai riusciti a fare live perché non abbiamo mai suonato sotto Natale, quindi non l'abbiamo neanche mai fatto, una volta sola l'abbiamo fatta live e basta, solo una volta, infatti non so se la faremo mai. No vabbè dai, sotto, bene o male penso che una canzone natalizia la si possa cantare bene o male dai primi di dicembre in poi, quindi se a dicembre avete qualche data. Non abbiamo letteralmente non abbiamo mai suonato a dicembre, ma non è mai capitato, non so perché. Guarda, quindi non è mai capitato. C'è il nuovo compito, per modo di dire, provare a fare qualche data a dicembre per dare giustizia anche esatto. alla canzone natalizia. Esatto. ok, quindi come dicevo siamo quasi agli sgoccioli. 333-180-94-94 se qualcuno volesse mandare altri messaggi anche solo di saluto. A questo punto te lo chiedo un attimo, tornando un attimo indietro a dirti, perché la volta scorsa è stata un'intervista proprio leggera di quella mezz'oretta che avevamo trovato un buco tra le vostre prove, appunto. Mm-hmm. Tornando sul discorso di Rumore, come avete scelto appunto Rumore, perché avete scelto di fare una cover e appunto perché Rumore? Ma in realtà era l'inizio, ci eravamo appena riformate. Ovviamente all'inizio non hai non hai questo grandissimo repertorio di cose nuove. Quindi anche un po' per testarti su cose particolari, cominciare a lavorare insieme, perché era proprio l'inizio, abbiamo cominciato a lavorare un po' insieme, abbiamo detto vabbè, ma facciamo una cover, così lavoriamo un po' insieme agli arrangiamenti. Era appena stata scritta Favole, se non sbaglio, non era neanche uscita Favole, che è stato il nostro singolo di ritorno. Quindi era proprio l'inizio, ovviamente un po' per testare come lavorare insieme, fai qualche cover, e questa cover l'aveva proposta la Dani e era venuta così bene che alla fine l'abbiamo voluta pubblicare, perché era proprio una versione molto, molto personale. Abbiamo detto ma sì dai, facciamola, perché è venuta proprio bella. Ok, ci sta, giustissimo, giusto per dare un attimo un parco canzoni all'inizio un po' più ampio, senza stare a pescare troppo da quello che erano le bambole di pezze e mandare avanti quello che avete appunto tirato fuori con Dirti e appunto la sera per cominciare a lavorare insieme su come fare gli arrangiamenti eccetera eccetera, nel senso che stavamo un po', era proprio l'inizio, ho appena cominciato a lavorare in sala. Ultima decina di minuti, sempre qui con Cleo, sulle Stormo Rock, Radio Città Fujiko, 333-180-94-94, se qualcuno volesse mandare un messaggio, come dicevo prima. Un parere personale appunto da parte tua, dato che bene o male il disco è uscito da un paio di settimane, anzi marzo, un mesetto sostanzialmente, scusami. Sì. Cosa ne pensi del disco a distanza di un mese? Ma a me è sempre piaciuto questo disco, l'ho sempre trovato addirittura molto più bello di quello di prima. Mi piacciono tutte le canzoni indistintamente, qualcuna di più, qualcuna di meno proprio per gusto personale, però mi piacciono comunque tutte. Io sono molto felice di questo disco qua, ma tutte lo siamo, è bello suonarlo, è molto più difficile portarlo live, ma profondamente più difficile, però io sono soddisfatta, a me piace tantissimo, io non cambierei niente di questo disco. Ok, e invece per quanto riguarda qualche featuring da parte esterna, cosa vi è stato detto del disco? In che senso? Da magari qualche recensione da più o meno grossa di qualche testata giornalistica. In realtà il disco è piaciuto, il disco di norma è piaciuto, ma anche perché è talmente tanto vario che secondo me non puoi trovare all'interno qualcosa che non ti piaccia, a meno che proprio o ti fa schifo il genere, ti fa schifo in generale qualunque cosa sia pop melodico, o ascolti solo black metal, o scommetto che qualcosa che ti piace all'interno del disco la trovi. E io ascolto black metal, lo apprezzo molto, però non ascolto solo quello. Ok, infatti io mi ricordavo che bene o male arrivavi un po' dal rap hip hop tu più anche, no? No, questo ricordo di quando io rappo anche, ma non c'entro niente, anzi l'hip hop io non l'ho sempre detestato, sempre No, denigrato no, perché comunque ci saranno, cioè a qualcuno piace per l'amor di Dio, ma io lo detesto. Ok. Cioè io non riesco a sentire una canzone hip hop, proprio è uno di quei generi che proprio non riesce a piacermi sotto nessun punto di vista. Non mi è mai capitato di trovare una canzone hip hop che dicessi bella questa. Mai proprio, okay. Però è gusto personale. No, beh certo, figurati, anch'io sbaglio. No, io arrivo dal deathcore, dal death metal, dal metalcore, dal black metal, io arrivo da quella roba lì. Quindi dall'hardcore. Parkway Drive. No, roba che... Ancora Lorna Shore, Suicide Silence. Bravissimo, okay. Lorna Shore, Annihilator, oppure che ne so, Emure. Okay. O insomma. Ho capito. Tutto chiaro, anch'io meno male ascolto qualcosa di quella fazione di metal un po' più estremo. Fulci, adesso sono fissata coi Fulci. Ok, sì, vanno tantissimi i Fulci intanto. Come dicevo, siamo effettivamente, dopo aver scoperto, perlomeno da parte mia, oltre a questo discorso di black metal, siamo praticamente arrivati addirittura all'arrivo di Lestormo Rock, quindi come avevo iniziato la puntata dicendo della grazie disponibilità di aver trovato questa oretta per passare qui con me, ti vado a chiedere la domanda a scaricabarile che vado a fare alla fine. Mm-hmm. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Oddio! Non lo so, non ne ho idea. Allora, non ti preoccupare, la reazione bene o male è sempre questa, perché non la spoiler okay. mai. Ok. Quindi se hai un attimo. La cosa che non mi hai chiesto e che io vorrei dire. In realtà ti faccio un'anticipazione, dai. Vai. Anche se non l'abbiamo detto, però lo possiamo dire tranquillamente. Finalmente. Dopo un sacco di richieste andremo in Sud Italia e abbiamo questa data a Catania che non vedo l'ora di fare, perché il giorno prima ci sarà un firmacopie e mi sento molto tipo Nickelodeon che vado a fare i firmacopie nei centri commerciali, non vedo l'ora, mi sento molto Gabriella e quindi sono veramente contenta e soprattutto non vedo l'ora di andare in Sicilia, perché uno, non ci sono mai stata, e due, c'è un sacco di gente che ci vuole in Sicilia da un sacco di tempo e finalmente arriveremo in Sicilia. C'è un sacco di gente anche che ci vuole in Puglia, però stiamo cercando di organizzare. Ok, vabbè, buona notizia, quindi questo è un discorso che si avverrà un po' più avanti, magari per l'estate. Buono giugno, quindi per l'estate ci saranno altre, sì. Quindi piccolo spoiler, ci saranno altre date appunto che partiranno per quest'estate. Ma sì, quest'estate ce ne saranno una miriade di concerti, però giustamente sono situazioni diverse, non c'è la situazione del club, col club lo show è completamente diverso. Che ci sono le luci, ci sono poi tutte le scenografie, le cose. Ovvio che quando fai l'estivo non hai lo stesso show, è più una roba caciarona dove ci si trova a bere un sacco di birra sotto il sole, tutti sudati. E insomma, è semplicemente diverso, però ce ne saranno tante quest'estate di date. Sì, sì. Ok, quindi io vado effettivamente a chiudere la puntata di Lestormo Rock ricordando Dai. Che le bambole di pezza saranno qui a Bologna il 13 di marzo al Locomotive. Biglietti attualmente ancora disponibili, se non sbaglio, se non ho visto male. Eh sì, sono ancora. Ok, buono a sapersi e direi che ci vedremo probabilmente in quella data e come dicevo prima, grazie della disponibilità e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie a te. Ciao. E vado a chiudere la puntata appunto con il consueto buon punk rock a tutti.